24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Berlusconi è impazzito perché le sue aziende stanno crollando. Guarda, preferisco uno che combatte per le sue aziende e è quello che è un nemico dichiarato, che quei cazzo di finti amici della sinistra che per 20 anni hanno fatto impazzire. Renzi ha perso 400.000 iscritti, quest'anno 400.000 iscritti. Abbiamo più iscritti del PD noi. Lui è un leader senza base, noi siamo una base senza leader, è la nostra forza questa qui. La nostra natura è questa, forse essere meno istituzione, forse essere un po' più presenti nella gente, fare meno petizioni, meno mozioni e andare a essere lo scudo umano delle persone che hanno bisogno, siamo nati da queste cose. Perché se noi adesso arriveremo a vincere le elezioni, a governare, questa Europa cambierà in una settimana. Tra noi, i francesi e gli inglesi, è finita questa Europa dei banchieri. Oggi su Repubblica un titolo così, Draghi della BCE che dice con titolo così: se i governi non fanno le riforme devono andare a casa. Ma allora io dico, chi li manda a casa i governi? Un banchiere? Ma di che cazzo stanno parlando questi qua? Adesso a novembre inizialmente iniziamo di nuovo a essere sul territorio con i banchetti, con firme. Faremo una legge popolare per uscire dall'euro, porteremo lì 3, 4, 5 milioni di firme in Parlamento e il Parlamento, anche se non è costretto dalla Costituzione a discutere, si troverà costretto a discutere perché dentro ci sono 150 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Allora, senatore Vito Crimi, buongiorno. Buongiorno, Minoli. Come va? Tornate tra la gente? Cosa significa esattamente? Nel concreto. Guardi, dell'azione. Nel concreto dell'azione è quello che facevamo prima, continueremo a farlo. Semplicemente adesso è stato in qualche modo comunicato in maniera prorompente, diciamo, da Beppe. È una cosa di cui forse pochi si erano accorti, in particolare. Quindi questa è la nuova linea politica, si ritorna nel paese. Guardi, io ieri ho visto una specie di ciclo che si è aperto, chiuso e adesso il cerchio continua a girare, nel senso che noi da lì siamo partiti, dai banchetti, dai meetup, dai gruppi locali, da lì siamo partiti. Cioè bisogna ritornare a quello che siete. Sì, e ieri li abbiamo rivisti tutti insieme, non so se hai avuto modo di vedere le immagini, sì, sì, a parte certo. Il palco di Beppe, quello che era questo brulicare di idee e di persone, io dico più di idee che di persone, perché insieme in ogni realtà c'erano veramente tantissime idee, proposte, uno spettacolo. Senta, addirittura un ex segretario del DS, Piero Fassino, ha detto in un'intervista l'altro ieri, che se il Parlamento stesse chiuso 6 mesi non se ne accorgerebbe nessuno. Gli offrite una tessera 5 stelle ad onore, ma anche lui. Oh, guardi, è una cosa che diciamo spesso anche noi, ma Fassino, non è proprio. Però questo non deve essere considerato una cosa, diciamo, una diminuzione del ruolo del Parlamento, assolutamente. Anzi, noi vorremmo che lavorasse di più il Parlamento. Ma voi avete detto basta, però anzi. Grillo, perché il momento, Grillo ha detto in cui meno petizioni e più, certo, più strada. Certo, perché finché nel momento in cui sono praticamente lettera morta, inutile, io le ricordo, tanto per farle un esempio, visto che siamo in pieno tema, che sul dissesto idrogeologico, su nostra pressione, è stata portata in aula una mozione, sono state votate due, tra l'altro una del PD votata, ad aprile 2013, che doveva essere di stimolo al governo per fare una serie di azioni volte. Ma i soldi ci sono, le burocrazie non li hanno fatti spendere, mi par di capire. No, guardi, non si tratta di burocrazia, anzi no. Tutto il contrario. La burocrazia forse ha aiutato chi quei soldi, diciamo, li voleva spendere in alto. Basta andare a vedere quando si tratta di urbanizzare qualche area, la burocrazia, i comuni là superano velocemente. Senta, ma esiste dopo questa 3 giorni una cosa che non è chiara, anche se non ne avete mai voglia di parlare, ma esiste oppure non esiste il problema della leadership? Dice Grillo, noi siamo un popolo senza leader, Renzi è un leader senza popolo, è un bello slogan, ma insomma Si può andare se avanti senza leader, è un io, po' difficile. Io toglierei la parola problema. Adesso esiste il problema della leadership. Esiste, non esiste, non è un problema, ecco, non è quello il problema, secondo me. E non è un problema che... È anche un problema, perché... Ma assolutamente no, no, ok. Perché? Assolutamente no, ma perché non è fondamentale il problema, cioè andare a vedere se c'è o non c'è una leadership, come deve essere, la nostra leadership siamo noi, cioè, io ho visto ieri, guardi, una delle cose che passava era un po' un'organizzazione che qualcuno ha definito un'anarchia organizzata, un'organizzazione random che era perfetta. Insomma, caos organizzato. No, vabbè, ha detto anarchia, io dico caos, più o meno. Caos organizzato, comunque era veramente uno spettacolo vedere dal basso arrivare tutti i gruppi da tutta Italia super organizzati. Ecco, noi abbiamo fatto, perché poi le parole in politica devono riacquistare un significato e noi quest'anno cerchiamo di fare i fact checking per proprio vedere il rapporto fra le parole e i fatti, e devo dire anche voi lo avete sempre accettato. Grillo, per esempio, ne ha dette un paio che vorrei sottoporle. Due in particolare, fact checking fatto con i nostri collaboratori di Pagella Politica. Sentiamo Grillo sul reddito di cittadinanza. Se non accetti lo perdi, c'è in tutta Europa, tranne noi e la Grecia, non abbiamo reddito di cittadinanza. Ecco, Grillo dice non abbiamo reddito di cittadinanza. In realtà il reddito di cittadinanza non esiste in nessun paese d'Europa. Forse Grillo fa confusione tra reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza. Così è possibile? Guarda, il reddito di cittadinanza, come lo pensiamo noi, ingloba al suo interno anche il reddito minimo garantito. Allora bisogna mettersi d'accordo sulle parole, prima, diciamo. No, questa è la prima. No, se, il nostro disegno di legge è chiaro in questo senso. Il reddito di cittadinanza che abbiamo progettato nel scritto disegno di legge prevede anche l'integrazione del reddito per chi non arriva al reddito minimo garantito. Quindi per voi sono la stessa cosa, diciamo. Non sono la stessa cosa. Uno, le ho detto, ingloba anche l'altro. Va bene, sentiamone un'altra. La Germania in 10 anni come crescita è stato un disastro. Negli ultimi 10 anni la Germania è cresciuta dell'11%. In 10 anni vuol dire niente. E adesso negli ultimi tre mesi la crescita è negativa. La Germania è la grande locomotiva, è all'undicesimo posto sui 18 paesi che sono dentro l'euro. Ecco, lei lo dice, la crescita dell'11% in 10 anni della Germania è niente. Questa parte della dichiarazione non è vera. Infatti il PIL della Germania è cresciuto del 13,5%. E oltre, al di là di questa cifra, la crescita della Germania è stata superiore alla media delle economie cosiddette avanzate, che è stata del 12,4%, ha fatto meglio la Gran Bretagna, che ha fatto l'8%, la Spagna il 3%, l'Italia almeno 5%. Quindi, diciamo... Non è corretto, è corretta l'ultima parte sul trimestre finale. No, per abituarci a dire le cose. No, voi avete l'ambizione di essere creduti. È importante, secondo me, rimettere insieme le parole e il loro significato. Guarda, mi piacerebbe riascoltarlo, perché mi sembra di aver capito, non era chiarissimo, che dicesse. Che facesse non un paragone solamente con Italia, Spagna e Inghilterra, ma probabilmente con tutto il mondo. No, questo lo facevo io. Ecco, per cui quello che volevo dire è che se Germania la misuriamo rispetto a Francia, Italia, Spagna, Inghilterra, probabilmente ecco, è la locomotiva d'Europa, però se la paragoniamo a tutto il mondo, vediamo come. Il paragone con l'Europa. Se le parole le misure deve andare a vedere che parole ha utilizzato. Esattamente, ma lui esattamente non dice. Mi pare che abbia usato la parola Europa, è lei che sta utilizzando la parola Europa. Possiamo riascoltarlo. La Germania in 10 anni come crescita è stato un disastro. Negli ultimi 10 anni la Germania è cresciuta dell'11%. In 10 anni vuol dire niente. E adesso negli ultimi tre mesi la crescita è negativa. La Germania è la grande locomotiva, è all'11° posto sui 18 paesi che sono dentro l'euro. Allora, non si può dire che è niente, prima di tutto. L'11% non si può dire che è niente. Il confronto non dice la parola Europa, ha ragione lei, però è ovvio che ci stiamo... Parla di euro e quindi di eurozona. Quindi... Paesi dell'euro. Quindi francamente andiamo adesso a verificare se è all'11° posto del 18 paesi, insomma, dell'euro, ma è una questione di precisione. Con questo metodo noi cerchiamo semplicemente di aiutare la politica, per quello che possiamo fare, a dare significato vero alle parole. È importante per tutti, secondo me. Sono pienamente d'accordo, però mi raccomando, il significato vero alle parole, l'undicesimo sui 18. Quando si parla di Europa, parla di euro, l'euro è in Europa. Italia, Spagna e Grecia, parliamo anche degli altri. Dei paesi dell'euro, non d'Europa. Dell'euro, appunto, dei paesi dell'euro, naturalmente, e il confronto è con quelli. L'ultima domanda le faccio. Senta, Grillo... Sì. Dopo averlo sempre attaccato, abbiamo sentito all'inizio, dopo aver sempre attaccato Berlusconi, oggi dice che Berlusconi è meglio di Renzi. Perché? Proprio Renzi, il diavolo. Ma no, arriva, sta facendo un ragionamento, come ha fatto in passato, sempre sul paradosso. E banalmente oggi, rivedendo Berlusconi nel suo percorso, Berlusconi ha fatto l'interesse delle sue aziende. Questo è quello che ha detto Beppe, era abbastanza chiaro. E in qualche modo è venuto quasi tenerezza a dire un Berlusconi che cerca di tutelare le sue aziende. E Renzi, vedendo anche quello che succede oggi con Fiat, non ha certo aiutato... diciamo questa logica, vedendo anche la Cina, se vediamo i rapporti con la Cina, non so se ne avete parlato, la vendita di Cassa Depositi e Prestiti Reti, che possiede il 30% di Terna, è stata venduta ai cinesi. Naturalmente, i cinesi arrivano e fanno shopping da tutte le questo, parti. No, ma la cosa interessante è che Renzi questo lo considera un grande investimento, una cosa positiva, perché è reciproca un corno, nel senso che noi andiamo a comprare le voglio fare un'ultimissima domanda, perché siamo un po' fuori tempo massimo. Cosa vuol dire con l'esercito e con noi, che Grillo ha detto sabato su dal palco? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a Grillo. Chiederemo a Grillo. Va bene. Se ci risponde glielo chiediamo, ci aiuti un po' lei. Grazie. Grazie, buon lavoro, arrivederci. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. E al Senato la maggioranza è formata, il governo è tenuto in piedi da 32 senatori che erano stati eletti dagli stessi nostri elettori, che avevano dato a loro come a noi il mandato di tenere a bada, di contrastare la sinistra. Traditori. A distanza di quasi un anno, l'ex cavaliere così chiama Alfano e gli altri della scissione e invita chi invece è rimasto fedele a rilanciare il partito. Oggi noi possiamo rivendicare con orgoglio e con fierezza di avere salvato l'Italia, perché se l'anno scorso noi avessimo dato retta a chi voleva affondare il governo e far cadere la legislatura, oggi l'Italia sarebbe nelle mani di Beppe Grillo. Senatore Tonino D'Alì. Nel centrodestra, buongiorno, tutti dicono che bisogna unirsi per vincere, poi Alfano attacca Berlusconi, dice senza di noi governerebbe Grillo, insomma mi sembra molto difficile questa unione. Ma guardi, purtroppo devo dire che le premesse che anche l'anno scorso hanno portato sicuramente a una condivisione di un percorso differenziato tra due parti del popolo si è esaurito, assolutamente ritengo che si sia esaurito. Ecco, ma dopo un anno, senatore... Creda a qualche polemica un po' troppo sopra. Senta, senatore, dopo un anno che sta nel centrodestra, un po' l'ha detto, ha capito se Alfano ha il quid oppure non ce l'ha? Non ce l'ha? No, ma Alfano è sempre stato un ottimo politico, è sempre stato un personaggio di in grado di affrontare situazioni. Sì, ma ce l'ha il quid oppure no? Il problema, guardi, io penso che possa anche avercelo, ma questo il giudizio non è mio. C'ha un quasi quid, dice Buttafuoco. Il giudizio è degli elettori, poi naturalmente. Vabbè, gli elettori non è che l'hanno premiato tanto. Qua dobbiamo vedere se il quid ce l'ha il paese per uscire fuori Ecco, alle, senta, senatore D'Alì. Con questa impostazione politica, che a me non sembra il massimo. Senta, ecco, senatore, dire, senatore, sento... Noi abbiamo fatto una riforma costituzionale che io non ho condiviso, tante altre cose. Senatore, lei sta al telefono e io ho sempre paura che caschi la linea. Lei è amico di Berlusconi ed è uno dei fondatori di Forza Italia. Sì, sicuramente. Ecco, adesso ci ritornerebbe di nuovo nel nuovo centrodestra? La rifarebbe oppure no quella scelta? Ma sicuramente la rifarei, perché quelli che sono stati i motivi fondanti di Forza Italia nel 94 rimangono. No, io dico il passaggio nel nuovo centrodestra, lo rifarebbe? No. Scusa, mi ho fatto male la domanda. Non tornerebbe. Alla luce della mutazione del quadro politico e soprattutto di alcune decisioni che sono state prese anche con l'assenso del centrodestra, non ci tornerebbe, ieri sera lei ha incontrato ad Arcore Berlusconi, che cosa vi siete detti? Torna nel centro del Forza Italia lei? Ma guardi, abbiamo fatto un quadro molto ampio della situazione politica nazionale ed anche internazionale, dove sappiamo che il Presidente è sempre molto, molto presente e molto attento. E io devo dirle che sicuramente quelli che sono prevalenti nei miei sentimenti sono quelli del 94, cioè quelli di un rinnovamento del Paese attraverso senatore D'Alì, mi risponda alla domanda però, precisa. È vero che torna in Forza Italia con un gruppo di senatori vicino a lei? No, guardi, io ho fatto sempre scelte autonome, assolutamente con la mia coscienza e naturalmente anche con i miei elettori. Io non faccio cordate. Ma quindi torna o non torna lei? Se io torno e forse probabilmente torno per le mie personali valutazioni. Quindi torna da solo? Ma sicuramente, per quel che mi riguarda, sì. Ma pensa, ha sentito di persone che hanno intenzioni come le sue oppure no di rientrare a Forza Italia? Certamente non c'è una serenità complessiva in tutti quelli che hanno fatto la scelta a suo tempo il nuovo centrodestra, oggi come oggi. Sono però molto agitati. Non posso su questo, naturalmente. Non può quantificare il numero. No, né quantificare, né tantomeno sindacare. Parlare a nome di altri. A nome di altri o sindacare le valutazioni di altri. Però, senatore D'Alì, facciamo due conti. In una decisione politica ci sono tante sfaccettature, certo. Vabbè, premesso... che poi portano a assumere la decisione. Premesso che lei torna in Forza Italia, per Renzi vuol dire che la maggioranza al Senato, che mi sembra era di 7 voti, diminuisce ancora. No, guardi, io non credo che questi ci siano spostamenti per quanto riguarda una singola valutazione. Saranno di più di uno. Io credo che non dobbiamo limitarci a fare considerazioni numeriche quando assumiamo decisioni politiche. No, e allora lei cosa dobbiamo pensa? Dobbiamo fare valutazioni di carattere complessivo. Cosa pensa che capiti al Senato? Insieme a lei ci sarà qualcun altro? Questo io non lo so. Quel che capiterà sicuramente, che certo si ricontano poi nel momento delle votazioni, ma io già da tempo che non ho partecipato, ho votato anche contro molte determinazioni del governo e non è cambiato il quadro politico. Ma quindi il rapporto fra Renzi e Berlusconi, diciamo, per certi versi sulle riforme istituzionali diventa più forte, perché se diminuisce la maggioranza al Senato bisogna trovare degli accordi più forti, insomma. Ma lì anche a Berlusconi ho contestato la sua adesione a una riforma costituzionale assolutamente non coerente, secondo me, con gli interessi del Paese. Quindi io il mio giudizio rimane assolutamente autonomo e in questo caso molto severo. Come ho contestato l'assoluta mancanza. Questo l'ho capito, però adesso stiamo parlando del futuro. Diciamo, lei torna in Forza Italia, questo diminuisce la maggioranza del governo al Senato, è indubbio perché uno in meno o uno in meno o più di uno in meno. Volevo chiederle, secondo lei il patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi è un patto che tiene, che riguarda solo le riforme? Le riforme costituzionali, voglio dire? No, è un patto che riguarda le riforme e riguarda la legge elettorale. Sì, certo, e tiene? Secondo me tiene, ma io devo dire che i contenuti si sono molto modificati per quello di cui io sono a conoscenza. E quindi ritengo che anche lì, come tutti, cose di questo mondo, quando si tratta di unire le volontà di due persone, vanno sottoposte a... E quindi secondo lei la legge elettorale è più vicina? secondo me la legge elettorale è più vicina, e la legge elettorale, se è più vicina, serve per votare. Certo, ma sarebbe... per votare quando? In primavera? Ma guardi, queste sono ipotesi che non si possono fare. Ma lei a quanto le dà le elezioni in primavera? Ma io direi che sono più probabili nel 2016. Più probabili? Quindi in primavera le dà poco? Sì, diciamo come percentuale di probabilità le do più nel 2016 che non nel 2015. Senta, ma senatore, ma Alfano avrà quella notizia del suo ritorno a casa dalla trasmissione Mix 24 o gli ha fatto una telefonata? No, io con Alfano ho un rapporto di sincera amicizia. E quindi l'ha avvisato che lei, certo, abbandonava. Senta, c'è Mario Seghi che le vuole fare una domanda, anche Pietrangelo Buttafuoco. Sì, prego. Senatore D'Alì. Saluti a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono prove tecniche di governissimo? Ma io sono talmente una singola unità, come abbiamo ricordato poco fa, e forse anche non sufficientemente considerata, nel senso non mi sto autocelebrando, dico dal punto di vista del peso politico, che non possono esserci prove tecniche di governissimo tramite me. Pietrangelo? Buongiorno. Allora, la domanda non risulti contorta, però io leggo oggi un titolo, sul giornale, una dichiarazione di Berlusconi. Renzi sta in piedi grazie ai traditori eletti con noi. Ora però io faccio un altro discorso. Noi sappiamo, sì, che in realtà Berlusconi a Renzi gli vuole molto più bene di Alfano, che invece sta al governo con Renzi. Allora, la sostanza quale sarà? Mi sembra una bella domanda, eh? La sostanza quale sarà? Uno accanto a Berlusconi lo aiuta meglio Renzi, giusto? Ma non certo in questa fase. Se c'è una fase politica successiva da immaginare e da programmare, potrebbero anche esserci delle convergenze. Senta, ma questa non mi pare la fase, anche perché, se Pietrangelo me lo consente, sì, ma questo Partito Democratico in Sicilia cosa vuole fare? Continuare con questo balletto? Siamo fra siciliani, il discorso è tutto vostro. Continuare ad assistere, e noi assistere a questo balletto verde o rosa che sia. E lo so, ma purtroppo è il cosiddetto centrodestra che aiuta Crocetto molto più di quanto lo faccia il Partito Democratico. Io quindi non intendo assolutamente aiutarlo. Va bene, allora anche per questo, mi sfido anche per questo. Grazie, grazie senatore. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Una bolla che sta per esplodere. Insomma, in realtà è già esplosa. E voglio parlare di jet che partono. In realtà parliamo di che cosa? Del conflitto tra l'ISIS, che ha coinvolto due paesi, è diventato un conflitto regionale, la Siria e l'Iraq. La notizia importante dal punto di vista strategico è che i turchi hanno dato l'assenso per l'uso della base aerea di Incirlik agli Stati Uniti. Di per sé potrebbe anche significare... Che cosa cambia? Beh, innanzitutto un ride più veloce, sì, più però, facile. Ride, però se i turchi non avanzano, bravo, non capita niente. Bravo, infatti è una notizia più importante dal punto di vista politico, sì, che militare. Cioè, si stringe l'alleanza fra gli Stati Uniti, sì, e la Turchia, ma che i curdi, sì, però muoiano tranquillamente. Non c'è soluzione militare, secondo me, senza un intervento di terra. Questo è abbastanza l'abbiamo chiaro. L'abbiamo detto in tutti i modi. E segnalo che ISIS alle porte di Baghdad, 10.000 uomini, prendono l'Iraq e buonanotte. Salamino. Allora, ci fu l'anteprima di Buttanissima Sicilia. Oggi faccio interesse privatissimo. Ci fu nel teatro il teatro del birraio di Preston di Camilleri a Caltanissetta, l'anteprima nazionale di Buttanissima Sicilia, che devo a questo punto dire che è stato un successo, no, pazzesco, ma fu davvero un successo tremendo, pazzesco. Di pubblico, non di è potuta più entrare, ma allora devo dare un bacio a Rosemary Enea, a Costanza Licata, a Salvo Piparo, grandissimo interprete, ma soprattutto a Peppino Sottile, che ha firmato la regia. Ascoltate, signora, questo ritornello. Varietà. c'era questo ritornello su Sarino, se Pepe, insomma, ci siamo capiti, vero senatore? Io mi faccio aiutare. Il senatore D'Alì è venuto a trovarci perché l'abbiamo convocato. Perché non abbiamo creduto a quello che ci ha detto, è troppo poco, perché ci forse ha detto canta. Troppo poco. Forse canta, quanti siete senatori? Sono assolutamente stonato. Quanti siete senatori che passano a Forza Italia? Confessi. Confesso e ci ripeto, dia un numero. Io sono autonomo nelle mie decisioni e non ho cordate che mi vengono appresso. Può darsi che altri facciano la mia stessa riflessione. Li ha sentiti nell'aria? Ma sono riflessioni assolutamente autonome, come è giusto che siano, per almeno in chi insomma cerca di onorare la politica col suo impegno personale. Quindi possiamo dire, senatore, che il quasi quid di Alfano ha generato un quasi passaggio. Professor Simonelli, buongiorno. Professore storico della televisione dell'Università Cattolica, sempre in televisione, l'ho visto anche ieri. Allora, cosa ne pensa della settimana televisiva? Soddisfatto? Sentite un ritornello. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere. È un ritornellino proprio per ragazzi appena nati, generazione. L'età è quella che è. Allora mi dica questa settimana televisiva, che voto dà, dov'era? Di noi. Mi dica dov'era il canone in questa settimana. Anche il servizio pubblico frequenta la stessa spiaggia, lo stesso mare di anno in anno. Sì. I programmi di maggior successo della settimana sono programmi che seguono una tradizione, sono addirittura riedizioni. Sono, per esempio, Che Dio ci aiuti, una fiction che ottiene sempre grandissimi ascolti, Un'altra vita, una fiction nuova ma che ricalca linee tradizionali della fiction italiana. Beh, la fiction sta andando, professore, la fiction sta andando benissimo. Benissimo, benissimo. È l'unico, è l'unico prodotto televisivo che funziona in questo momento. Ma perché? Ha visto che il TG4 ha superato il TG7, ha visto? Sì, sì. Poi c'è il sabato sera che è interessante, perché un programma, Ballando con le stelle, che ha 10 anni di vita, insomma, continua a vincere il sabato sera, e Tu sì che vales non è che sia una grande novità, però c'è un però che bisogna segnalare. Ci dica il però. Cos'è successo sabato sera? È successo che Rai 2 ha fatto il 19% di ascolto, cosa che non accadeva da Ma con lo sport. Con lo sport. Che cosa? Con la pallavolo femminile. Con la pallavolo femminile, meravigliosa partita. Meravigliosa pallavolo femminile. Poi voi siete a Roma, forse non avete il polso di questa situazione. Guardi, la televisione c'è anche a Roma. No, glielo assicuro che c'è anche a Roma. Arriva fin qua. Cosa è stato a Milano? È stato un evento cittadino, un evento che ha coinvolto la città. Allora io voglio lanciare una idea. Ogni tanto chi fa il palinsesto, come ha fatto Rai 2, guardi un po' fuori, guardi un po' cosa succede nel mondo, cambi il palinsesto in corsa se c'è qualcosa di interessante. Va bene, va bene. Al posto di un telefilm ci metta qualcos'altro. Qualcos'altro si potrebbe fare, va bene, professore. Io però ho indovinato anche. Ah, eccolo, dica. Io ho indovinato. Pietrangelo, ascolta. È Sconosciuti in treno di Patricia Highsmith. Giusto, professore. Professore, telefoni tutti i giorni per il Feltrinelli. Ho visto un film bellissimo tratto da Patricia Highsmith. Se mi permette, professore, anche al cinema. Ci fu quella bellissima versione teatrale fatta da Alessandro Gassman e Beppe Fiorello. Ma Sconosciuti in treno. Film di Hitchcock, Delitto per delitto. Sì. Appunto. Quello c'è il film, però magnifichiamo il teatro italiano. Va bene. Va bene, professore, grazie. Buona giornata. Grazie a tutti. A lei, il 14 ottobre del 1980, 40.000 impiegati e quadri della Fiat scesero in piazza per dire basta ai picchetti, agli scioperi degli operai che manifestavano contro un piano di licenziamenti dell'azienda. Sembra davvero la storia di un altro mondo. Una vittoria della Fiat, una sconfitta per il sindacato. Oggi, nel giorno in cui la Fiat viene quotata, Mario, a Wall Street, sarà un grande passaggio, e naturalmente non simbolico, molto importante. Ne parleremo dopo il giornale radio con Marina Milone. Ripercorreremo allora tappa dopo tappa le vicende che portarono a quella che viene ricordata nella storia, diciamo, oramai, come la marcia dei 40.000. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, pubblicità.